in primo piano. Buongiorno Alessandro Milan e buongiorno ai nostri ascoltatori per questa rassegna stampa. Oggi è constatato ancora una volta che l'Italia è un altro pianeta, mentre all'estero, per esempio, il Herald Tribune si interessa alla nuova fabbrica della Fiat in Polonia, in prima pagina, come Detroit potrebbe appassionarsi per la macchina piccola, oppure l'inizio oggi del Parlamento europeo, oggi 14 luglio, dove si parla della probabile elezione di Jerzy Buzek, un ex primo ministro della Polonia e non più l'italiano Mario Mauro, come si parlava prima. E questi argomenti sono all'avanguardia dei giornali internazionali e dei website internazionali, come gli argomenti internazionali. Invece in Italia abbiamo una concentrazione sui problemi nazionali e soprattutto sulla relazione del presidente Cardia alla Consob ieri. Quasi tutti i giornali ne fanno allusione in prima pagina, ma le scelte non sono necessariamente unanime, e per questo è abbastanza interessante, perché in quanto il Sole 24 Ore naturalmente mette l'allarme del presidente Cardia sul finanziamento alle imprese e chiede più trasparenza alle banche, e poi si parla anche editorialmente sulla tirata di orecchie, diciamo, della Consob su finanza e regole, dando parole pesanti che condannano la prassi dei intermediari finanziari di collocare i prodotti più redditizi per loro, naturalmente, o più adatti a conseguire altri obiettivi, con scarsa e nessuna cura delle esigenze del cliente a cui sono destinati. Qui c'è un editoriale di Orazio Carabini che commenta in questo modo le parole e le comunicazioni del presidente della Consob. Il Corriere della Sera non sceglie questo come titolo in prima pagina, ma si concentra piuttosto sulla severità a scuola e su più bocciati, meno volti alti, primi dati alla maturità, e la maturità è stata quella del rigore, 15.000 studenti respinti. Intanto però ha un'analisi all'interno sul discorso, la relazione del presidente della Consob, di Dario Di Vico, che dice la finanza blasonata e il malessere dei artigiani. Che il presidente della Consob, disse Di Vico, Lamberto Cardia, attributasse un omaggio alle piccole e medie imprese, definendole trama fondamentale del tessuto imprenditoriale italiano, nessuno poteva prevederlo, tantomeno si poteva indovinare che di fatto aprisse la sua relazione annuale denunciando il rischio di asfissia finanziaria che corrono artigiani e microimprenditori. I maliziosi leggeranno la sortita del presidente dell'Authority di Borsa come un posizionamento personale filogovernativo e antibanchiere, ma la sostanza non cambia. I piccoli sono entrati prepotentemente in agenda, non ci si può girare dall'altra parte. Questo è l'analisi del Corriere della Sera sul tema numero uno. Si può dire che il Corriere della Sera, come dicevo, non ha scelto questa linea e ha deciso di concentrarsi sui problemi della scuola. problemi della scuola che sono anche caratterizzati da un editoriale di un column di Francesco Giavazzi che parla dell'università delle ipocrisie. Da almeno 30 anni ogni tentativo di riformare l'università è fallito per la resistenza di interessi potenti, non disposti a rinunciare ai propri privilegi. Il governo Berlusconi segue una strategia diversa che potrebbe essere il banco di prove per altre riforme. Cosa pretende Giavazzi? Lo dice un po' più giù nel suo articolo, come è scritto più volte. Io penso che vi sia un solo modo di conciliare le varie posizioni: alzare le rette universitarie. Oggi esistono in media inferiori a queste rete sono inferiori al 1.000 euro all'anno, mentre ogni studente costa al contribuente 7.000 euro all'anno, quasi 12.000 se sì, non si contassero i fuori corso. Rette più elevate dovrebbero essere accompagnate da borse di studio tale da garantire a chiunque lo meriti la possibilità di accedere all'università. Perciò si parla naturalmente di più meritocrazia. Si deve anche dare al Corriere della Sera diciamo il premio di varietà sulla sua prima pagina, perché si interessa dal concerto a Milano di Madonna di questa sera al fatto che Berlusconi sia nonno per la quinta volta dalla sua primogenita Barbara, e del fatto che un italiano su due dichiara sotto i 15.000 euro. Insomma, una prima pagina abbastanza variata. Anche diversa la Repubblica che, a parte l'accenno sulla Consob, anche parla moltissimo dell'estero. Shock in America. C'è un articolo su il fatto che 2.000 prigionieri taliban furono uccisi in Afghanistan e sepolti in fosse comune dai uomini di un signore della guerra finanziato dagli Stati Uniti. Sull'episodio Barack Obama ha annunciato l'apertura di un'inchiesta, facendo una specie di analisi, come avevamo anche accennato ieri. Vittorio Zucconi parla in un commento sui scheletri del buccismo e dice: sta in una fosse comune scavate nelle valli dell'Afghanistan, dove i corpi di almeno 1.000 talibani, forse già morti, furono buttati sotto gli occhi della CIA, quel passato che Barack Obama aveva sperato di tenere sepolto. Si era illuso di tenere gli scheletri del buscismo, delle esecuzioni in massa, delle torture, della quotidiana sovversione della legge nel nome della sicurezza nazionale, rinchiusi nell'armadio per creare una specie di CIA buona in luogo di quella cattiva intossicata dai predecessori, per poter guardare avanti e non all'indietro. Invece si vede che i guai della presidenza Obama possono cominciare a nascere precisamente da questo. Vediamo rapidamente gli altri giornali. Naturalmente La Stampa, che si è sempre attento al fenomeno del candidato Grillo, lo rimette in prima pagina con il fatto che è stato bocciato dal PD e che Chiamparino pensa all'opposizione. Libero invece va su un po' più una linea più estrema, dicendo che Grillo sta ammazzando il Partito Democratico. In un articolo di Vittorio Feltri dice: come fa il PD a sostenere che il comico va bandito perché ha appoggiato liste diverse da quelle democratiche? E finisce il suo contundente articolo dicendo: allora stupratori sì, facendo allusione al stupratore seriale di Roma, cabarettisti no. Congratulazione. Il Riformista invece tira le somme di questa decisione di Beppe Grillo, dicendo che senza UDC si perde. Perciò il sondaggio di questo giornale Riformista dice che se si votasse oggi il partito di Casini sarebbe decisivo. Chi lo ha come aliato vince. La risposta dei centristi: aspettiamo di vedere chi vince il progresso del PD. Poi devo anche sottolineare dalla parte del Foglio un articolo interessante sul fatto che il presidente Napolitano va verso il sì nell'approvazione del pacchetto di sicurezza. Il Quirinale fa obiezione al testo, ma lavora con fine per scongiurare gli effetti di una possibile crisi. Questo è significativo per essere sicuro che non ci sia crisi d'estate. E poi parla anche dei problemi di Obama con l'eredità del vicepresidente Cheney e della CIA. Voglio segnalare rapidamente altri articoli molto interessanti. L'Avvenire, per esempio, parla di queste misteriose esplosioni che ci sono state in Iraq contro i cristiani in Iraq. C'è stato, come forse sapete, un attacco su 5 chiese sulla capitale, tutte simultanee. Sembra che è una strategia contro i cristiani dell'Iraq, che erano 800.000 e adesso sono diminuita da 250.000. C'è un'interessante intervista anche all'ausiliare di Baghdad. Poi segnaliamo rapidamente l'unità che si schiera contro il trattamento nucleare. Nell'area del nucleare segnaliamo un interessante articolo di Franco Reviglio, l'economista, sui perché di una scelta nucleare meglio tardi che mai. Secondo me adesso vi passo al traffico e vi aspetto dopo il traffico per gli approfondimenti. In primo piano. E ribongiorno da Dennis Redmond, che oggi sta con voi a guardare quello che può interessare dalla stampa italiana e internazionale. Vorrei forse passare un po' più di tempo a quelli che ci ascoltano a vedere gli articoli più di approfondimento della stampa italiana. Oggi, per quelli che sono appassionati di media e che presumibilmente sono alcuni degli ascoltatori, devo segnalare certamente un articolo di grande interesse sul Sole 24 Ore. È la storia di un ragazzo di 15 anni che si chiama Matthew Robson, che è stato il protagonista della giornata ieri alla City di Londra, centro della finanza europea. Lui ha 15 anni e questo ragazzo, che fa lo stagista da Morgan Stanley, ha praticamente dato le sue idee su come passa il suo tempo con i mezzi elettronici. Si è trovato a dimostrare come la rete cambi la gerarchia dell'esperienza e come un ragazzo possa sapere molto di più degli adulti di realtà tecnologiche più importanti per il futuro. Luca De Biasi, che è un grande osservatore delle cose della rete, dà tutta una pagina su questo ragazzo prodigio che pronuncia alcune condanne, per esempio che Twitter, questo mezzo attraverso il quale si mandano messaggi di 140 pagine, che è diventato un po' la moda in America e in altri posti, anche in Iran durante la rivolta, è inutile perché non si vedono i profili. Nessun teenager legge giornali di carta, perciò, tra parentesi, quello che state ascoltando da me allora dovrebbe essere per dinosauri. Nessuno è disposto a pagare la musica. E queste sono alcune indicazioni che dà Robson. Questo rapporto della Morgan Stanley è stato inviato venerdì scorso a tutti i suoi clienti, e la reazione è stata sorprendente. How teenagers consume media. Come i teenagers consumano i media. E con questo si può prevedere che noi saremo diversi, un mondo diverso fra 10 o 20 anni. In America c'è Morgan Stanley e in Inghilterra c'è questo ragazzo Matthew Robson, e invece in Italia c'è un guru dei computer che si chiama Salvatore Aranzulla, che a 15 anni fonda un blog sui pericoli della rete e oggi è un sceriffo del web che ha 1 milione di utenti. Forse non è conosciuto agli ascoltatori, ma è un fenomeno della comunicazione. Un altro tema sulla comunicazione è come funzionano bene due titoli dei giornali mondiali, uno è l'Economist e l'altro è il Bild. C'è un articolo di Massimo Mucchetti su questi modelli vincenti, come ci sono utili record per il gruppo editoriale inglese e quello tedesco, aumento di copie vendute, ricavi dell'online, Bild Zeitung, per esempio, questo è l'articolo nel Corriere della Sera, ha 3 milioni e 3 di copie al giorno, è il più diffuso quotidiano nell'intera Europa. E indovinate chi c'è sul consiglio, presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo Bild, è il signor Giuseppe Vita, che è un siciliano di Favara e berlinese d'adozione. Perciò, questo fenomeno sui media che funzionano ancora è studiato dal Corriere. Poi il Corriere anche si concentra su quello che appassiona sempre gli italiani ed è la battaglia tra le reti di Mediaset e quella di Sky e quella della Rai, con un incontro che c'è stato tra il dirigente della Rai Masi e Mockridge, il capo della Sky, su questa battaglia sulla televisione e le reti. E finalmente voglio segnalarvi un articolo molto interessante su la battaglia tra Google e Microsoft. È una battaglia che viene studiata da IMF, il quotidiano dei mercati finanziari, e che parla del fatto che Microsoft accelera i suoi servizi web con Office 2010, che sarà l'anno prossimo offerta online in versione gratis. Perciò questo accelera la competizione con il competitore Google, che ha provato finora senza successo ad offrire programmi simili a Office e continua a essere legata a filo dopo alla pubblicità online. Articolo da David Fumagalli. Prima di chiudere vorrei segnalarvi anche articoli un po' diversi che ci sono in varie pubblicazioni. Il primo è il fenomeno dei sequestri da parte dei dipendenti di aziende francesi, dei loro dirigenti. Il Sole 24 Ore ha una foto in prima pagina sui 366 dipendenti dell'azienda francese di componentistica Nufabris, che è di proprietà di un'impresa italiana che si chiama Zen, che è stata messa in liquidazione e che minacciano di fare esplodere l'impianto con delle bombe a gas se non riceveranno 30 milioni, 30, scusatemi, 30.000 euro di indennità dai due grandi clienti, Renault e Peugeot. Modi diversi di organizzare la protesta, comunque il Sole 24 Ore lo copre all'interno, e invece il manifesto, credo, ce l'ha in prima pagina sul suo giornale. Un altro modo di studiare l'attualità è il problema dell'energia. Il Sole lo affronta in pagina 13 con tutto un paginone che parla della firma dell'accordo Nabucco in Turchia, che darà delle opzioni a i paesi del centro Europa, perché c'è un pipeline che aggira la Russia. E poi si vede anche che il problema dei gasdotto implica molto le strategie dei gruppi Enel e Eni. Finalmente dovrei segnalarvi un articolo di Carlo Di Benedetti sul Sole 24 Ore su temi finanziari. L'impresario italiano Carlo De Benedetti parla dei problemi di deflazione, chi era costei, e conclude che lo shock non è alle spalle. In Europa la perdita dei posti di lavoro non si arresta e la curva dei salari americani ha toccato quasi lo zero. C'è un'incognita sull'exit strategy. Qual è la conclusione di De Benedetti? È precisamente sugli aiuti e ancora aiuti alle imprese che si giocherà Obama la sua leadership, e con noi tutti ci giocheremo un pozzo del nostro futuro. Adesso Dennis Redmond ripassa la linea a Alessandro Milan e vi augura una buona giornata.